c'è sempre un modo, una strada, un mondo che mi può ridare la forza che so di avere in me. È forte una montagna, ma è fragile con me. L'abbraccio di mia mamma mi stringe forte a sé. Lo sguardo di mio padre mi rassicurerà e non sarò mai solo in questa immensità. Mi chiedi cosa penso, poi ascolti il mio silenzio. Non so raccontare cosa mi fa vibrare. Rimani qui con me, guardiamo tutto intorno e camminiamo insieme. Incontro il nuovo giorno, a volte io mi perdo, però poi torno qui, scrivo un'altra storia che mi accompagnerà, perché c'è sempre un modo, una strada, un mondo che per ogni due c'è un grande universo. Mi può ridare la forza che so di avere in me.